Allora, buongiorno e benvenuti alla lezione con il Torah. Oggi studiamo Mishnah e concludiamo il terzo capitolo del nostro trattato di Mishnah di Rosh Hashanah. Abbiamo studiato nella scorsa lezione, abbiamo imparato i diversi criteri che riguardano lo shofar stesso e abbiamo cercato di approfondire anche alla conclusione della scorsa lezione, il discorso dell'intenzione. Cioè abbiamo detto che qualora una persona, nello specifico si parlava dello shofar, qualora una persona sentisse il suono dello shofar, ma non necessariamente si trovi nel contesto, diciamo così, normale all'interno del Beta Knesset, magari passa per caso vicino al Beta Knesset e sente il suono dello shofar. Ci siamo posti la domanda se si rientra nella mitzvah, se si esce l'obbligo di ascoltare il suono dello shofar in questa maniera. E la Mishnah ha detto che è necessaria l'intenzione, cioè se l'intento della persona è non solamente di udire per caso, ma di ascoltare il suono dello shofar per poter fare la mitzvah, allora esce l'obbligo. E proprio nel contesto della intenzione, la nostra prossima Mishnah, che appunto è l'ultima Mishnah del terzo capitolo, fa riferimento in maniera straordinaria a dei concetti più astratti, meno tecnici alachici, più si può dire Agadà, cioè insegnamenti etici. Che commentando due episodi raccontati sulla Torah si rientra sempre in questo ambito qui della importanza della kavanah, l'importanza della giusta intenzione. Vediamo di cosa si tratta. La Mishnah cita direttamente un versetto della Torah. Nel libro di Shemot troviamo il racconto della prima guerra che dovette sostenere Israele dopo l'uscita dall'Egitto. Come sappiamo, siamo stati attaccati dal popolo Amalekita, Amalek, e in quella situazione la Torah racconta che Yehoshua, Giosuè, era a capo dei militari ebrei e Mosè pregava. In che maniera pregava? C'è scritto che Mosè era salito su un'altura dalla quale si poteva vedere il campo di battaglia e pregava alzando le mani verso il cielo. E qualora si sentiva debole ed abbassava le mani, si risentiva questa cosa nel campo di battaglia, come adesso vedremo nel testo. Vehaya kaasher yarim Moshe yadao vegavar Israel. Qualora Moshe alzava, sollevava il braccio, allora Israel prevaleva, è scritto sulla Torah, così avveniva. E la Mishnah si pone la domanda: Chi yadav shel Moshe osot milchama o shovrot milchama? È forse possibile pensare che le braccia di Moshe sono quelle che fanno la guerra, cioè fanno sì che si abbia successo? Oppure fanno interrompere questo successo nella guerra? Perché si descrive una situazione in cui quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva nella battaglia, mentre invece quando abbassava le mani, le braccia, Israele e Amalek prevaleva. Allora la Mishnah si pone questa domanda: cosa significa? Le braccia di Mosè sono quelle che determinano ciò che avviene sul campo di battaglia? Allora la Mishnah spiega: Ela lomar lecha. Solamente con questo la Torah è volta ad insegnarci, ad insegnare a noi. Kol zman shehayu Israel mistaklin klapei mala, tuttora che Israel guardava verso l'alto, finché che Israel guardava verso l'alto, allora facendo questo, ricordandosi della presenza e del supporto di HaKadosh Baruch Hu, un meshabdin et libam, e asserviva, sottometteva il proprio cuore, Israel, al Mosè, loro padre in cielo, e cioè la Vihem Shebashamaim al loro padre in cielo, allora è questo che ha fatto sì che Hayu Mit Gabberim, questo faceva sì che loro potessero prevalere, cioè non sono le braccia di Mosè, ma sono le braccia che danno la possibilità di ricordare e di indicare dove bisogna rivolgere il proprio sguardo, anche se non fisicamente, ma lo sguardo del cuore deve essere rivolto verso l'alto. Bisogna asservirsi, sottomettersi al volere di HaKadosh Baruch Hu, riconoscere la sua onnipotenza, e allora in quel caso trovavano la forza Israel per prevalere sul campo di battaglia, mentre invece, altrimenti, quando si abbassavano le mani di Mosè, Vim Lav, Ayuno Flim, se loro, se gli ebrei non guardassero verso l'alto, eccetera, allora cadevano, letteralmente. Una situazione simile, come dicevo, ci sono due episodi a cui riferimento la Mishnah. Nel libro di Bamidbar abbiamo letto riguardo una situazione in cui gli ebrei parlarono contro Mosè e contro HaKadosh Baruch Hu, ed era una delle volte in cui HaKadosh Baruch Hu fece divampare, diciamo così, la reazione alla sua l'ira che sentì a Kadosh Baruch Hu, per così dire, nei confronti degli ebrei in quel momento, si è espressa in una piaga che colpì i Bnei Israel nella forma di serpenti velenosi che attaccavano e uccidevano molti degli ebrei. In quella situazione anche Mosè chiese il perdono, furono gli ebrei a venire a chiedere perdono a Mosè, e Mosè diede subito il perdono e pregò per loro. Anche lì troviamo una cosa molto particolare, ancora più particolare rispetto a quella che abbiamo citato prima, e citiamo subito il versetto. Kayotzeba davar ata omer, simile a questo, ci dice la Mishnah, è anche indicato da quanto è detto nella Torah, Asse lecha saraf vesim oto al nes. A Mosè viene data l'indicazione da parte di HaKadosh Baruch Hu di creare un serpente fatto di rame e di metterlo su un vessillo, quindi in alto di nuovo. Questa è la similitudine con la storia precedente. E vehayakola nashuch vera oto vachai. Ogni persona morsa da un eventualmente morsa da un serpente doveva alzare gli occhi e guardare questo serpente di rame messo in alto su un vessillo e sarebbe guarito. Chi lo vedrà vivrà, c'è scritto sulla Torah. E la Mishnah ovviamente si chiede ancora più fortemente lo stesso problema che ci siamo posti prima. Vechi nachash memit o nachash mechaye? È forse possibile pensare che questo serpente, l'immagine del serpente, neanche il serpente, uccide o dà vita? Chiaramente non è così. Ella, e qui la Mishnah ci fornisce la stessa spiegazione. Bisman she Israel mistaklin klapei mala, nel momento in cui i Bnei Israel guardano verso l'alto, e umeshabdin et libam la viem shebashamayim, e di nuovo asservono e fanno sottomettere il proprio cuore al loro padre in cielo, allora hayumi trapin, allora venivano guariti, mentre invece vimlav, se non facessero così, hayu nimokin, si perdevano. Avendo fatto questa parentesi molto molto importante, agadica però non alachica, la Mishnah torna ad insegnarci la halakha che riguarda l'intenzione. Nello specifico, abbiamo già asserito nella scorsa Mishnah che qualora la persona avesse l'intenzione di rientrare nella mitzvah, allora è questo uno, forse l'elemento base per poter appunto rientrare e uscire l'obbligo, come abbiamo fatto l'esempio nel caso dello shofar. Ora, in questa intenzione ci sono in realtà due direzioni. Scusate, chi di fatto fa la mitzvah, nel caso dello shofar, l'officiante, diciamo così, O caso molto comune, il Kiddush di Shabbat. Una persona dice il Kiddush, gli altri hanno l'intenzione di uscire l'obbligo rifacendosi a quanto è stato recitato da chi ha officiato ufficialmente il Kiddush, formalmente. Quindi si rientra nella Kavanah. Ora, noi abbiamo parlato di nuovo di chi, diciamo così, vuole rientrare nella mitzvah. Ma colui che è l'officiante, anche lui deve avere l'intenzione di fare rientrare nella mitzvah, di fare uscire l'obbligo della mitzvah alle persone presenti o alle persone che vorrebbero rientrarci. E quindi, per poter fare questo, ci sono dei criteri. E il criterio base è: se io sono obbligato a fare una mitzvah, allora ho la facoltà anche di far rientrare un'altra persona nella mitzvah. Ma se io stesso non ho questo obbligo, allora non posso far rientrare un'altra persona. E ora la Mishnah dà l'esempio classico di questa situazione, cioè di chi non può far uscire l'obbligo ad altri, e qui parliamo in termini molto generali, e la Mishnah dice: Cheresh, Shoteh, Vekatan ein mozin et arabim yedei chovatan, e cioè abbiamo fatto riferimento a tre categorie di persone: Cheresh, il sordo muto, numero due, Shote, l'incapace, il matto, eccetera, e Katan, il minore. Tutte queste categorie di persone non fanno uscire l'obbligo alla collettività. Perché? Per la motivazione che abbiamo spiegato, e la Mishnah lo esplicita: Kol ze haklal, questa, dice la Mishnah, è la regola generale. Kol she'eino mechuyav badavar, chiunque non è obbligato a fare una cosa determinata, eino mozi et rabim yedei chovatan, non può far uscire l'obbligo, la collettività, di quella cosa lì, di quell'obbligo specifico nel quale lui non rientra. E allora, nei casi che abbiamo fatto, per esempio, prendiamo l'ultimo, il minore, visto che non ha l'obbligo di fare le mitzvot, allora, se noi volessimo il venerdì sera sentire il Kiddush da parte di un minorenne o una minorenne, sarebbe molto bello farlo, e si può sentire questo Kiddush, ma comunque un maggiorenne dovrà fare il Kiddush per far uscire l'obbligo a tutti i presenti, perché il minorenne, non avendo l'obbligo, non può chiaramente far rientrare nell'obbligo altre persone. E così, per la situazione del sordomuto o il matto, l'incapace, chiaramente, per esempio, nel caso dello shofar, di cui in realtà stiamo parlando in questo capitolo, visto che il sordo, anche forse se non fosse sordo muto, solamente sordo in questo caso, il sordo non può rientrare nella mitzvah dello shofar, nello specifico perché non può sentire, non può ascoltare il suono dello shofar, e di conseguenza non può fare uscire l'obbligo a qualcun altro, alla collettività. E quindi con questo, cari amici, conclude il terzo capitolo del trattato di Rosh Hashanah. Se Dio vuole, la prossima volta approfondiremo l'inizio del quarto capitolo, in cui parliamo almeno all'inizio sempre di questioni che riguardano lo shofar, nel particolare lo shofar, come si gestisce quando Rosh Hashanah capita il giorno di Shabbat. Alla prossima volta e buona giornata.